C. Il ritorno. 1. Ascolta il testo. Quando mio zio fece ritorno a Terralba, io avevo 7 o 8 anni. Fu di sera, già buio. Era ottobre. Il cielo era coperto. Il giorno avevamo vendemmiato e attraverso i filari vedevamo nel mare grigio avvicinarsi le vele di una nave che batteva bandiera imperiale. Ogni nave che si vedeva allora, dicevamo, questo è maestro Medardo che ritorna. Quella volta avevamo indovinato. Ne fummo certi alla sera, quando un giovane chiamato Fiorifero disse, oh, laggiù! Era quasi buio e vedemmo in fondo valle una fila di torce accendersi per la mulattiera e poi, quando passò sul ponte, distinguemmo una lettiga trasportata a braccia. Non c'era dubbio. Era il visconte che tornava dalla guerra.